Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con la stampa periodica, le notizie più interessanti che possiamo leggere, trovare, approfondire sui settimanali, sui periodici in generale, italiani ma anche stranieri. Oggi voglio cominciare con una domanda che vi sembrerà un po' strana, cioè dov'è la Svizzera secondo voi? Più o meno tutti sappiamo che si trova al confine nord del nostro paese, però la domanda non è oziosa perché, come ci avverte un trafiletto che è comparso sull'Economist, tra Italia e Svizzera c'è un problema di confini mobili. Mi spiego meglio ricorrendo appunto a quello che riferisce l'Economist. Il riscaldamento globale, il riscaldamento terrestre, l'aumento della temperatura terrestre può modificare i ghiacciai e quindi in questo modo alterare le frontiere. Perché? Perché, come riferisce appunto l'Economist, una volta le frontiere erano decise dagli eserciti, ma ora il lavoro viene fatto dal riscaldamento globale. L'Italia e la Svizzera si stanno preparando a fare o perlomeno a verificare le alterazioni al confine che sono dovute al movimento dei ghiacciai nella zona del massiccio del Monte Rosa. Spiega poi che il Monte Rosa è un massiccio che comprende 9 ghiacciai. In molti punti la linea che passa tra l'Italia e la Svizzera appunto è fissata dallo spartiacque, dalla fine del ghiacciaio. Ma il riscaldamento globale, l'innalzamento della temperatura complessiva della Terra ha fatto sì che i ghiacciai si siano ritirati e che quindi anche il punto finale del ghiacciaio sia modificato. In alcuni casi, questa è l'opinione che viene poi riferita dall'Economist di Carlo Colella, che è generale all'Istituto Geografico Militare di Firenze, in alcuni casi lo spostamento è valutabile in una decina di metri e quindi ci sono stati già dei lavori e in gennaio è stato già approvato un possibile cambiamento delle frontiere. Tra l'altro apprendiamo sempre dall'Economist che questo confine tra Italia e Svizzera non è neanche così stabile nel tempo perché già una prima volta era stato rivisto nel secondo dopoguerra. Il maggior cambiamento è intervenuto però negli anni 70 ed era dovuto al fatto che si doveva costruire l'autostrada tra Lugano e Como. Adesso in quell'epoca, appunto spiega l'Economist, c'era stato una compensazione nello scambio di territori, ma adesso bisogna rivedere appunto questa linea di confine stando a guardare come si è modificato il tracciato dei ghiacciai a causa del cambiamento del clima. Ecco, visto che ci stiamo chiedendo dov'è qualcosa, dov'è la Svizzera, l'Espresso di questa settimana che avete trovato da ieri ci porta a chiederci dov'è il reddito. In una inchiesta su un tema, ohimè, noto e dolorosamente noto verrebbe da dire, Gianni Del Vecchio e Stefano Pitrelli si chiedono come mai ci sono così tanti nullatenenti con yacht, come dicono appunto nel titolo. Da cosa deriva questa inchiesta dell'Espresso? Deriva da una notizia che potete aver trovato anche sul Sole 24 Ore di ieri. C'è un piano straordinario di controlli sulle false certificazioni che danno origine alle esenzioni sanitarie. Prende le mosse questo piano straordinario dai controlli eseguite dalla Guardia di Finanza sulle prestazioni sociali agevolate nel corso del 2009. Riferisce una tabella che viene proprio presentata dall'Espresso che su 14.838 interventi che sono stati effettuati la Guardia di Finanza ha denunciato oltre 4.000 persone. La maggioranza delle persone denunciate si trova, qui la tabella è divisa per regioni, in Campania, sono 777 su 1.400 interventi, ma ci sono numeri di tutto rispetto anche per la Sicilia, 410 denunciati su 1.400 interventi, o per la Lombardia, 351 denunciati su 1.797 interventi. Qual è il tema della questione del reddito nascosto? Che appunto usufruendo di sussidi, di case popolari, di esenzioni dal ticket, ci sono dei nostri concittadini che riescono a fare una vita da benestanti, però truffando appunto per godere di questi benefici sociali. E dai controlli spunta appunto questo esercito di finti poveri. Un tempo, scrivono del vecchio Epitrelli, c'era chi si limitava a falsificare il passi per gli invalidi, oggi c'è chi tarocca pure il posto auto riservato. Succede a Palermo, dove un uomo è stato denunciato per aver ritoccato con un adesivo il palo del parcheggio davanti al suo negozio, prenotandoselo così fino al 2013. Vero il cartello, vero il permesso, che però apparteneva a una suora che era già deceduta da 4 anni, e questo signore viene definito da Del Vecchio Epitrelli il furbetto 2.0, cioè l'evoluzione della specie, capace di passare di volta in volta per povero o per disabile. Tanto i rischi sono pochi, visto che nel nostro paese le punizioni per chi certifica il falso sono virtualmente inesistenti. Se sei incensurato e hai lucrato poco, la pena alla fine non la sconti. D'altra parte, avverte Cascini, Giuseppe Cascini, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, il malcostume, perché poi di questo si tratta, il malcostume è diffuso, ma il carcere non è la soluzione. Quello che ci vorrebbe sono invece più controlli. Questo avverte Cascini e segnala l'Espresso di questa settimana. E sono davvero brutti vizi che si fa fatica a estirpare, questi di certificare uno status per averne dei privilegi senza averne diritto, così come si fa fatica a estirpare, ci ha avvertito giovedì il magazine allegato al Corriere della Sera, si fa fatica a estirpare gli enti inutili. Sergio Rizzo, giornalista della firma molto nota appunto del Corriere della Sera, ha fatto questa inchiesta sulla resistenza, sulla pervicacia, c'è resistenza agli enti inutili. Cambi di nome, rifinanziamenti, decreti in extremis, così sopravvivono gli enti inutili. Erano 11 nell'elenco stilato nel 2008 dal governo Prodi, dovevano sparire entro quell'anno, ma molti, dall'ente italiano montagna a quello per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, sono stati graziati. Ecco come, e racconta appunto Rizzo, come si è riusciti a spostando via via, modificando normative e intervenendo sull'applicazione delle normative stesse, a far sopravvivere questi enti inutili. Emblematico il caso dell'ente italiano montagna, scrive Rizzo, uno di questi enti, impredicato per la soppressione, l'ente italiano della montagna, invece del temuto De Profundis, ha avuto con il decreto mille proroghe addirittura un finanziamento di 2.800.000 euro, ma era forse il caso più paradossale. Nato per decisione del governo Prodi dalle ceneri dell'Imont, era l'istituto della montagna, appena pochi mesi dopo aver visto la luce era stato infilato dalla stessa levatrice nell'elenco degli enti da sopprimere. Un errore al quale è stato per fortuna posto rimedio, così spiega l'attuale commissario straordinario incaricato da Prodi. Così quindi sopravvissuto l'ente italiano della montagna, la storia di tutti questi enti inutili la trovate sul magazine del Corriere della Sera che avete visto giovedì in edicola. Cambiamo decisamente argomento, ritorniamo per un istante sull'Economist, perché c'è una notizia che farà piacere a quanti di voi sono appassionati di videogiochi. Si parla di Nintendo. Nintendo, come sapete, ha conquistato il mercato mondiale con due proposte, la cosiddetta la Wii e il DS, cioè sono due videogiochi molto popolari, basati l'uno sull'interazione con il televisore domestico, l'altro invece costituito da un microcomputer portatile che consentono appunto di elaborare dei giochi. Spiega l'Economist di questa settimana che in questo momento però non tutto va benissimo per la Nintendo, anche se il successo a livello mondiale è indiscusso, ci sono delle difficoltà proprio in Giappone. Il PS3 della Sony avrebbe sorpassato la Wii e quindi alla Nintendo stanno cercando di correre ai ripari. Allora, la notizia che vi volevo dare, al di là delle strategie che possono essere messe in campo da questi colossi dell'informatica e dei giochi, è che sta arrivando questo pacchetto, dovrebbe essere pronto in giugno, si chiamerà Wii Sports Resort e sarà costituito da un pacchetto di giochi, tra cui appunto i giochi più tradizionali da spiaggia o comunque all'aperto. aperto. Tra l'altro si potrà giocare a frisbee con il cane o viaggiare sul fare sci d'acqua e altri sport di questo tipo. Quindi è in arrivo in qualche modo una nuova versione della Wii che dovremmo vedere entro l'estate. Questo almeno per il mercato giapponese, vedremo se poi il mercato europeo avrà invece una diversa segmentazione. E proprio in materia di videogiochi, una cosa rapidissima che vi segnalo dal venerdì, un videogioco molto particolare: Quando licenziare è un gioco, ma insegna molto sulla realtà, un videogame in verità che è stato ideato in America da un gruppo di studenti per mettere l'accento sulla precarietà e sulle conseguenze della precarietà. In pratica si gioca a dover licenziare qualcuno, un gioco, ohimè, che in questo momento in America, ma non solo in America, ha una sua notorietà, una sua celebrità, e in questo modo però si analizzano soprattutto gli effetti che possono intervenire, quali sono le parti dell'azienda che subiscono maggiormente i tagli. Magazine 24. Bentornati alla nostra rassegna della stampa periodica. Questa settimana su Panorama c'è un servizio interessante e anche un pochino inquietante. Lo firma Carmelo Abbate. Il titolo è già tutto un programma, dice così: ho comprato 500 SIM, cioè 500 carte di quelle che per i telefonini. Sono vostre? La domanda è motivata dal fatto che ci sono queste truffe telefoniche che oramai sono di tutto rispetto a quanto pare. Commercianti disonesti, spiega il sommario dell'inchiesta di Abbate, usano i dati dei clienti per attivare delle SIM card a loro insaputa. Le schede alimentano così un mercato nero che nutre il televoto, i numeri a pagamento e perfino la criminalità organizzata. Panorama ha provato ad acquistare 500 SIM fantasma. L'acquisto clandestino, che viene poi descritto nel servizio di Carmelo Abbate, ha delle modalità abbastanza rocambolesche, perché dice: il primo contatto è avvenuto via internet con il venditore nascosto da un soprannome. Poi il giornalista di Panorama è stato indirizzato in diverse città d'Italia presso commercianti che partecipano all'affare. Infine, dopo numerosi contatti andati a vuoto, la consegna in un parcheggio alle 11 di sera con il contatto protetto dall'oscurità. 500 SIM card intestate a utenti ignari. Durante la trattativa il prezzo è variato, secondo i casi, da 1 a 10 euro. Quindi tra 1 e 10 euro si possono acquistare delle SIM in modo illegale, SIM che in realtà corrispondono a numeri già in uso, e quindi telefonare e fare uso di queste SIM a spese altrui. Vi leggo qualche brano dall'inchiesta di Abbate. Non è stato semplice, riferisce Abbate, ogni volta che l'affare sembrava vicino alla conclusione il prezzo delle schede improvvisamente saliva da 1 a 5 e a 10 euro e le persone che dovevano materialmente consegnare le schede sparivano di colpo, non erano più rintracciabili. Alla fine il pacchetto mi è stato consegnato in un parcheggio buio di una strada statale alle 11 di sera. Le 500 SIM card erano ammucchiate dentro un sacchetto della spazzatura, ne ho provate una decina a caso, inserendole a turno dentro il mio telefonino e provando a chiamare. Funzionavano. Stavo chiamando con il numero di telefono di un altro, quasi certamente ignaro di avere utenze funzionanti a suo nome. È un fenomeno molto pericoloso, avverte Abbate, quello che si sta sviluppando, un autentico mercato parallelo, sotterraneo, di schede telefoniche intestate a persone completamente ignare. Le conseguenze possono essere serie, perché vengono messi a repentaglio molti aspetti fondamentali della vita di noi tutti, nessuno escluso, a cominciare naturalmente dalla privacy. Il commercio illegale, spiega poi Abbate, comincia in questo modo: il negoziante mette da parte le fotocopie con i dati anagrafici dei clienti, a loro insaputa naturalmente attiva altre SIM intestate agli stessi clienti. Per ogni persona il rivenditore può mettere nel cassetto anche una cinquantina di schede telefoniche irregolari. 100 clienti fanno 5.000 SIM card, ognuna delle quali ha un credito medio di 5 o più euro. Spesso nei retrobottega si accumulano scatoloni di fotocopie che poi vengono scambiate tra commercianti disonesti per continuare ad alimentare il giro. Qualche numero: in Italia circolano oltre 90 milioni di SIM, non è possibile in questo momento dire quante siano irregolari. Il garante della privacy, interpellato da Panorama per questo problema, avvisa però che le sanzioni sono diventate particolarmente severe. Spiega che da gennaio il garante può comminare, può minacciare pesanti sanzioni amministrative ed economiche che nei casi più gravi arrivano oltre il milione di euro, e se ci sono violazioni, dice Pizzetti, faremo ricorso a questo potere anche in modo molto severo. Annuncia tra l'altro Pizzetti in questa intervista che verranno condotte una serie di verifiche assumendo informazioni dalle procure e dalla Guardia di Finanza. E poi agli operatori telefonici, sono sempre le parole di Pizzetti, richiederemo gli elenchi di attivazione di SIM multiple superiori alla soglia indicata e di specificare sia il numero di quelle attivate al di sopra di quella soglia, sia per ciascuna quali siano state le modalità seguite. Lo faremo rapidamente, consideriamo probabile un'attività ispettiva molto significativa. Questa appunto la indicazione più rassicurante che viene da Pizzetti, quindi il garante della privacy si sta attivando su questo fenomeno delle schede clonate, che potrebbe essere davvero inquietante per chi poi si ritrova ad aver fatto telefonate che non ha mai fatto grazie a una SIM che non è la sua. Tutto questo discorrere di telefonini ci porta poi alla ultima pagina di Panorama, la rubrica Fatti e Credenze, affidata a Luca Ricolfi. Perché? Perché anche Ricolfi in qualche modo si occupa di telefonini, ma se ne occupa nell'insieme di una serie di beni che ormai possiamo considerare essenziali, anche se così essenziali non sembravano solo qualche anno fa. Qual è il ragionamento, in estrema sintesi, che viene svolto da Ricolfi? Che gli stipendi sono aumentati negli ultimi anni, ma perché il tenore di vita sembra non migliorare? Beh, perché il telefonino, la tassa rifiuti, il parcheggi, il personal computer, internet, il calcio in TV, insomma ci sono quasi oltre 2.000 euro all'anno che vengono spesi per beni e servizi quasi obbligatori. Ecco, questo quasi obbligatori è un po' la chiave della difficoltà a mantenere il tenore di vita. Vediamo qualche passaggio di questo ragionamento svolto da Ricolfi. Molti ritengono, scrive Ricolfi su Panorama, che il deterioramento relativo dei redditi da lavoro dipendente sia dovuto al fatto che in Italia la produttività del lavoro ha cessato di crescere. Altri mettono l'accento sul fatto che i modesti aumenti di produttività degli ultimi due decenni sono andati in massima parte ai profitti anziché a salari e stipendi. Altri, come Pietro Ichino, hanno osservato che fra le cause che rendono leggera la busta paga degli italiani c'è una iperprotezione del lavoro, la scelta dei sindacati di puntare più sulla sicurezza del posto che non sul livello del reddito. Ma, prosegue Ricolfi, se guardiamo le cose in un'ottica un po' più lunga, di due o tre decenni, non è difficile individuare un'ulteriore ragione che spiega perché tante persone, nonostante i loro stipendi siano un po' aumentati in termini reali, al netto dell'inflazione quindi, abbiano la sensazione di stare come prima o addirittura peggio di 10 o 20 anni fa. Per fissare le idee, consideriamo una famiglia tipo che abita in città. È composta da due genitori, due figli, uno dei quali in età scolare. All'inizio degli anni 90 la famiglia poteva permettersi di saltare del tutto o quasi almeno queste spese: tassa rifiuti, telefonino, compreso di ammortamento e ricariche, parcheggio, multe per sosta vietata, computer, collegamento internet, ticket sanitari, abbonamento per il calcio in TV, bollini blu per il controllo dei fumi, per non parlare di servizi divenuti indispensabili a causa dell'evoluzione sociale, come quelli resi dalle badanti, ieri quasi inesistenti perché si viveva meno a lungo, molte madri non lavoravano e diverse famiglie erano allargate, o di altri beni durevoli che siamo continuamente costretti a sostituire perché la tecnologia ci obbliga a farlo o perché i divieti rendono troppo oneroso il non farlo. Provate a vivere in città con un'auto che è Euro 2. Ho provato, è la conclusione di Ricolfi, a titolo di esercizio a effettuare una rozza stima delle spese aggiuntive annue di questa famiglia tipo e il risultato è impressionante. Sommate tutte le voci, si arriva a una cifra annua di oltre 2.000 euro a famiglia, una sorta di tredicesima negativa che falcidia il potere di acquisto reale. Una tabella che accompagna la rubrica di Ricolfi spiega appunto come questi beni socialmente utili, quasi indispensabili, appunto quasi obbligatori, incidano. La voce maggiore viene attribuita alla ricarica dei cellulari, al quale la tabellina di Ricolfi assegna 600 euro l'anno. La pay TV si piazza non male al secondo posto con 510 euro, e poi ci sono l'acquisto del personal computer, 250 150 euro, il canone internet per 180 euro. Naturalmente le altre spese citate, come i divieti di sosta, è indubbiamente più difficile oggi parcheggiare in una grande città che non di quanto non lo fosse solo 10 o 20 anni fa. E poi altre spese aggiuntive come il bollino blu, la necessità, appunto sempre citata da Ricolfi, di sostituire, di aggiornare la dotazione tecnologica anche di beni come l'auto o di altri beni di cui abbiamo necessità di aggiornarci. Visto che Ricolfi segnala anche il ricorso alle badanti come oramai un bene di tipo essenziale o quasi essenziale, dato dalle mutate condizioni di vita, il fatto che grazie al cielo si vive più a lungo, ma anche che le famiglie sono un po' meno allargate, comprendono un po' meno il tradizionale supporto di parenti che possono essere a disposizione per aiutare, vi segnalo un'iniziativa di Donna Moderna, abbastanza particolare, Donna Moderna edicola questa settimana. Il dossier di Donna Moderna è dedicato alle pulizie di primavera e fin qui diciamo non ci sono tanti aspetti di novità, ma la cosa invece interessante del dossier è che il dossier è realizzato in tre lingue. Cioè Donna Moderna propone una delle pagine con istruzioni in italiano, in inglese e in spagnolo, così che le possano leggere anche le colf straniere. Quindi se la collaboratrice non sa bene l'italiano, avvertono le redattrici di Donna Moderna, in questo caso Simona Bruscagini e Silvia Calvi, se la collaboratrice non sa bene l'italiano ci abbiamo pensato noi. Queste pagine sono scritte in altre due lingue, seguono una serie di pagine appunto dove si spiega come spolverare, come pulire, come far andare la lavatrice o cambiare i vestiti negli armadi, il tutto però organizzato in tre lingue, quindi in italiano e nelle altre due lingue, inglese e spagnolo, che si presumono, che si suppongono evidentemente tra le più diffuse, tra le collaboratrici familiari. Questo è il servizio che vi segnalo per Donna Moderna di questa settimana. Con questo il tempo a nostra disposizione si è praticamente concluso. Io vi ringrazio di averci seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana naturalmente per una nuova edizione di Magazine 24. Ringrazio Filippo Aureggi che ci ha aiutato in regia, nonché Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Buona giornata a tutti.